Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. E arriva il momento di Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, ormai. Da 14 anni sulle frequenze di Rock FM, 14 anni se mi volto indietro e pochi giorni invece se guardo verso il futuro. Fino al 31 di maggio, quando si chiuderanno le trasmissioni di Rock FM. Eclettica, nella sua versione attuale, si chiuderà il giorno prima, anzi due giorni prima. Dicevo giorno prima perché la 24 ore di chiusura inizierà il 30 maggio, quindi Eclettica si chiuderà il 29 di maggio. Nel suo formato canonico, anche se settimana prossima slitteremo di un'ora. Ricordatevene, settimana prossima Eclettica sarà fra le 20 e le 21, perché fra le 19 e le 20 quasi tutti i giorni avremo degli ospiti che ci verranno a trovare. Non ci sarà l'Eclettica del venerdì, perché nell'ultima 24 ore di Rock FM ci sarà un'Eclettica edizione speciale. Gli incipit, i libri, saranno scelti dalle altre voci della radio che li leggeranno, come anche sceglieranno quelli che ritengono essere i loro film più rappresentativi. La scena di questa cronaca è la cittadina di Dawson's Landing, sulla sponda del Mississippi, dal lato del Missouri, a mezza giornata di viaggio in vaporetto a sud di St. Louis. Nel 1830 era un piccolo agglomerato compatto di modeste case di legno a uno o due piani, con le facciate a calce seminascoste da un groviglio di rose rampicanti, di caprifogli e di campanule. Davanti a ogni casa c'era un giardinetto recintato da una staccionata bianca e riccamente fiorito di malvarose, calendule e altri fiori che usavano allora. E sui davanzali si allineavano cassette di legno e vasi di terracotta, dove cresceva una varietà di geranio dal colore rosso intenso che accendeva come una vampata sulle facciate rivestite di rose. Quando sul davanzale, oltre ai vasi e alle cassette, c'era spazio per il gatto era lì, nelle giornate di sole, sdraiato in tutta la sua lunghezza, sonnolento e beato, col pancino peloso al sole e una zampa arricciata intorno al naso. Questo era l'incipit di Wilson, lo svitato, di Mark Twain. Oh, tutti mangiano guardando la televisione. Può darsi, ma non si mangia dalla pentola, è disgustosa. Allora è vero quello che dicono. Gli iraniani non hanno educazione. Ed è vero quello che dicono di voi. Eravate tutte prostitute prima di farvi suore. Questo incidente segnò l'inizio di una lunga serie di traslochi. Piruettavo di casa in casa. Innanzitutto, Eve e sua madre mi accolsero da loro. Poi coabitai con 8 omosessuali. In seguito occupai una minuscola mansardina a Floriani Gasse. Poi da amici di amici, per finire da Frau Dr. Schloss al 13 di via Glungasse. Frau Schloss era una professoressa di filosofia in pensione. A dirla tutta, era un po' suonata. Erano questi Rudder Bros che hanno rifatto alla grande, secondo me, un vecchio brano dei Superchunk, ovvero sia Slack Motherfucker, in precedenza invece da Città del Messico, uno dei due nomi messicani che stanno girando dalle parti di Eclettica in queste settimane, che trovate nelle playlist di Eclettica, che vi ricordo potete continuare a ricevere grazie alla lista nera di Eclettica, che non c'entra niente con la lista nera di Claudio che ho visto sul forum della Rock Family. Se siete iscritti alla lista nera di Eclettica potete ricevere direttamente nella vostra casella di posta la playlist settimanale della trasmissione con l'elenco delle canzoni, dei film e dei libri, e vedreste comparire al primo posto del volume numero 2 di questa settimana, numero 29, Lost Fancy Free, appunto, con Beetle Suit Purple Boot, e vedreste comparire al terzo posto, dopo i Rudder Bros, due nomi accoppiati, due nomi che anch'essi sono abbastanza frequenti in questo periodo, che però escono assieme. Infatti i Tokyo Police Club stanno per pubblicare un 7 pollici grazie alla Saddle Creek di Tessellate, però in una versione remix, e qui compare il secondo nome che sentite spesso, quello dei Los Campesinos. Infatti è remixata da Tom Campesinos dei Los Campesinos. all the boys who called their mothers on that day. No tough bonds, but they had the nerves to go and say, that all your secrets were drowned with the pioneers who were flooded from this town. They packed their bags only moments too late, with the pounding waves crashing up against the weakened water gate. Cause dire times call for dire faces, so lovely dancer, call a dancer, trade our places in the night. We're running barefoot, you and I. Dead lovers salivate, broken hearts tessellate tonight. And all the tears you cut their knees on that old schoolyard dancer, call and dancer, trade our places in the night. We're running barefoot, you and I. Dead lovers salivate, broken hearts tessellate tonight. Fu al castello di Warwick che incontrai il curioso straniero di cui sto per parlare. Ne fui attratto per tre cose: la sua candida semplicità, la sua meravigliosa familiarità con le antiche armature e la sua compagnia riposante, nel senso che parlava sempre lui. Ci trovammo vicini, come succede alla gente modesta, nella coda del gregge che veniva guidato alla visita, e lui, a un tratto, cominciò a dire cose che mi interessarono. Mentre parlava, sommesso, piacevole, fluido, sembrava che venisse pian piano trasportato fuori da questo mondo e da questo tempo, in qualche epoca remota in un paese da lungo tempo dimenticato. E così, a poco, mi intesseva intorno un tale incantesimo che mi pareva di muovermi tra gli spettri e le ombre, la polvere e la muffa di una grigia antichità, e di parlare con una sua reliquia. Esattamente come io parlerei dei miei più prossimi amici o nemici o dei miei più noti vicini, lui parlava di Sir Bedivere, Sir Bordergany, Sir Lancillotto del Lago, Sir Galahad e degli altri grandi nomi della tavola rotonda. E come sembrava diventare vecchio, indicibilmente vecchio e appassito, secco e ammuffito, mentre procedeva. Questo era l'incipit di Un americano del Connecticut alla corte di Re Artù, di Mark Twain. Come on. voglia di vomitare. Questa cosa non può essere. Domani tutti alla manifestazione. In ogni caso sono parole al vento. La vita è il nulla. Quando un uomo prende coscienza di questo vuoto non può più vivere e inventa giochetti da dominatori e dominati. Ma che cavolo dici? L'esistenza non è assurda. Lo sai che c'è chi dà la vita per la libertà? Credi che mio zio sia morto per divertimento? Coglione. Facevo la vita frivola, mentre quelli che amavo vivevano nell'inferno della guerra. Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a sbarazzarmi di questo senso di colpa. Volevo solo vivere come una ragazza della mia età. Il tempo del cambiamento si avvicinava. In pochi mesi, la ragazzina che ero diventò una giovane donna. Fu un periodo di bruttezza eternamente rinnovata. Per cominciare, crebbi di 18 centimetri. Poi cambiò la mia testa. Il viso mi si allungò, poi l'occhio destro diventò più grande, talonato dal vento. La mano destra mi diventò abnorme, poi il piede sinistro. Il naso triplicò di volume, il petto mi sviluppò, comparvero le chiavi.